riusciate a copiarmi. Avanti! Avanti, avanti, chi è chiama? E domani si ricomincia a zappare. abbiamo. Ehi, piano piano, l'MDM, sperando che il tempo si stia rimettendo bene, aveva messo pioggia oggi e ieri, invece meno male ce l'abbiamo stampata. Meno male che sì. Allora ti trovi adesso? Adesso sono vicino a Graziella. Sto arrivando in quelle coordinate. Guarda quando scala, sì, a voglia che arrivi. Positivo, allora va bene, l'importante è sentirsi sempre a tu. Scappa, se no non mi fate arrabbiare perché già lo sai, Tu, alla Pisa già lo sai. Scappa, io sono un bambino monello, mi fate girare, voglio l'erba buio. Appagappa, qua sta arrivando una fucilata. Appagappa. Io lo faccio una festa. Su che andiamo, ragazzi? Appagappa. Mistica qua. Non ho detto una cosa stamattina, c'è una cosa in mente, ragazzi, te la devo dire. Fa di positivo a tutto, non c'è problema. Mira. Me l'hanno detto, me l'hanno. Quanto è già? Giallo voglio sapere, giallo. Mi hanno invidiato un asciutto. succede di quelli di qualcuno deve dare il durato, mi ha scommato a così guai lì, state lì, mi ritrovi il giorno dopo. No, dopo sotto il letto stanno lì. Non riesce a farli uscire perché stavo spavento. Che me lo posso immaginare? Tutto visto e poche cacone me. Kappa. Io adesso sto lasciando le ragazze qui e vado a mettere la macchina nella sana. Kappa. Ok, non c'è problema. Sia pianino. Com'è lì l'andato? Ah, l'andato così e me. E ho andato. E così. Ci ha fatto una vite bucarotte. Come ha fatto? Ha avuto una vite bucarotte. Sì, accanto di voi. Già se ne trovano sempre di quelli in giro. Ma il numero uno da un secchio. Kappa. Alla grande, Antutto. Una manica di un carottica. Iuia. Povero caridare, cazzo. Ma la... Antutto, dammi 2 minuti che metto dentro la macchina. Kappa. Casino di QRM qui a Sassari, Non lo posso immaginare. E come sono entrato a Sassari, sei QRM a manetta. Tutte quelle porcherie che ci sono dentro Sassari. Ma che cazzo sei? Ah no, è qua. Cioè, da mezzo la faccio anche pure in testa. Gappa. Io sono arrivato qua in garage, se coincide ce la risentiamo dopo.